prevedi. Mrs. Rands, fra poco, no, faccia di chiedere. Buonasera, amici. modo meglio. You've offended us, questa sera ora mi risallaccio. L'avventuriera mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme. Quella Miguel Torrena è una canaglia, Ashby non vi fidate. Vedete di donne innamorate, ad ogni modo Ranz tengo l'invito. Perfine Papagallo si è ferito. Scusa, io ci sposo la mia ditta. E poi niente, quanti cosa mi sono vicino, che mi consolo. Il mio paese che faranno la ditta. Ma povera Kitty! Bene, tutto faccio. Ci sono Cice, non Cice e Tristi. Io, Cice, brutte nuove, su coraggio. E anche nonna se n'è andata. Non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chi è sto whisky ed acqua? Whisky ed acqua, chi sono questi mostri? C'è quello che gli ho detto, ma la polca si deve il whisky schietto. Intendo, gli aggiusteremo i ricci. Nessuno mai,

Thank you.

in quel barile Johnson c'è un tesoro, ci ripongono loro ragazzi e vi lasciano così. Che mi guarda